Buonasera, tutto bene? E niente, sono sopra un macchinone, dietro c'è un femminone. E niente. Saluta Marco Mazzoli. Saluta Paolo Nois. Saluta Fabio Alisei. Saluta Pippo Palmieri. Saluta Wender. Saluta Herbert Ballerina. Saluta Ivo Avido. Saluta Maccio Capotonda. Saluta DJ Spy. Saluta Marco Dona. Saluta Luca Alba. Merda. Saluta Antonio. The 105 Z.